della feccia nelle strade di Milano. Di sicuro stai pur certo, non li lasceremo fare. Travestiti, spacciatori, marocchini e culattoli. Quanto tempo credi ancora?